Benissimo, buonasera. Siamo di nuovo a un appuntamento della Biblioteca Provinciale che vuole scoprire alcuni aspetti della storia locale e in particolare della nostra città, una storia recente, non diciamo ufficiale, ma che si nasconde nelle pieghe della vita cittadina e della quotidianità, quella anche più effervescente, che solo Marco Pugliese sa scovare, ecco, perché il nostro storico, il nostro conferenziere che sa sempre catturare l'attenzione con dei temi vivaci e interessanti, ma seri allo stesso tempo e appoggiati a una salda bibliografia che è il nostro interesse come biblioteca. Questa sera, oggi è il giorno 9 febbraio 2023, siamo qui presso il Trivilab, la biblioteca provinciale Claudio Augusta organizza questo incontro che si svilupperà con una diretta Facebook. Ringrazio Marco Pugliese per la sua partecipazione e ci apprestiamo ad ascoltarlo, ringraziandovi dell'attenzione e augurandovi una piacevole serata. Allora, buonasera, siamo in diretta anche Facebook e per questa conferenza dal titolo La Bolzano da bere. Io ho pensato di dare questo titolo perché ho notato che, a parte gli italiani in generale, ma i bolzanini hanno una sorta di ricordo dolce di quel periodo storico ormai che noi classifichiamo come magnifici, bellissimi anni Ottanta, che però hanno una storia di un certo tipo dietro. Che cosa c'è di luccicante in quella storia? Cercherò di spiegarlo stasera. E che cosa effettivamente ci hanno lasciato quegli anni? Cercherò di spiegarlo anche a livello storico, da un punto di vista anche architettonico, per quanto riguarda la nostra città, facendo vedere anche delle fotografie che in realtà non fanno parte del periodo degli anni Ottanta, perché la nostra città, mi sono reso conto dopo vari studi, di fatto negli anni 80 era praticamente uguale agli anni 50, 60 e 70, cioè le grandi trasformazioni della nostra città sono state fatte negli anni 80, fine anni 80, inizio anni 90 e poi nel 2000. Quindi in pratica i Bolzanini che sono nati a cavallo della fine della guerra, o comunque che addirittura erano qui prima della guerra, non hanno visto queste grandissime trasformazioni nemmeno in quel periodo lì. Le hanno viste proprio negli anni 2000. E quindi la Bolzano degli anni 80 in realtà era la Bolzano degli anni 50, degli anni 60 e degli anni 70, che viveva però un periodo particolare perché l'Italia in quel momento aveva un atteggiamento particolare e abbastanza strano rispetto ai 30 anni di storia precedente. E qui dietro ho messo questa foto del Corriere della Sera, della prima pagina, Italia quarta potenza, cioè l'Italia era entrata nel G7 negli anni 70 ed era riuscita nel giro di pochissimo ad arrivare nel club dei paesi più industrializzati e più tecnologicamente avanzati del mondo. Lo aveva fatto dagli anni 50 fino agli anni 70 e poi aveva avuto uno scatto ulteriore negli anni 80 e inizio anni 90. Quindi in pratica eravamo davanti anche a paesi come la Gran Bretagna, che dobbiamo anche avere un ragionamento, cioè quando si parla di Gran Bretagna e di Londra non dobbiamo farlo con gli occhi di oggi, ma con gli occhi della persona del Novecento. Cioè, siamo entrati nel Novecento con la Gran Bretagna che ha un impero coloniale il più grande della storia, che ha dato una cultura praticamente omogenea all'Australia piuttosto che al Canada, quindi a stati anche importanti, e che è andata poi a scemando, scompattando questo impero e facendo un'azione culturale molto complessa al suo interno, perché ci sono delle testimonianze nelle università inglesi in cui l'impero veniva visto ancora in modo positivo. Quindi abbiamo questa potenza che noi andiamo a superare. La Gran Bretagna arrivava dal periodo della Thatcher, quindi da riforme molto, molto dure sullo stato sociale, eccetera. E perché si definisce Milano? Milano da bere, Italia da bere, e poi di conseguenza io ho messo Bolzano da bere, era più una provocazione. Se vi ricordate, questo spot spopolava negli anni 80 ed era uno spot molto particolare. posto solo un attimo così lo faccio vedere anche a chi è casa, adesso ve lo faccio riascoltare. Sì, Milano, la città della nostra nazione. Milano che rinasce ogni mattina e pulsa come un cuore. Milano della proprietà, troppo, ma prezioso come oro. Milano generosa, che ti mangia e ti divora. Milano che ti adora. Positiva, ottimista, efficiente. La città della Marmo Mazzotti, che è nata qui 170 anni fa e che ancora oggi porta ovunque questa Milano da vivere, da sognare, da godere. Questa Milano da bere. Ecco, questa pubblicità che era famosa negli anni Ottanta, dedicata all'amaro, in realtà all'interno, all'interno ha tutta una serie di messaggi che il nostro paese ha poi veicolato nella politica, cioè era la Milano rampante del socialismo craxiano e dei nuovi politici di quell'epoca lì. Erano politici rampanti, politici diversi da quelli a cui eravamo abituati, o al meglio erano abituati gli italiani, ed erano politici che raccontavano il paese in un modo diverso, ovviamente influenzati da quella che poi sarà la TV berlusconiana di massa degli anni 90, perché dietro al Partito Socialista e a Craxi c'è già lo show teorizzato dalle reti Mediaset, perché il congresso del Partito Socialista all'inizio degli anni 80 fu gestito da pubblicitari di Mediaset, quindi molti non lo sanno, ma Craxi si ispirò a quel progetto lì. Infatti Berlusconi si definì amico di Craxi proprio alla vigilia delle famose votazioni del 94, perché non volle dimenticare l'amicizia che aveva con il leader socialista. E il leader socialista di fatto fu un antesignano di quello che poi è stato definito una sorta di berlusconismo, cioè quella società luccicante, veloce, della palestra in ufficio, un po' all'americana, che in realtà era stata copiata praticamente dall'idea che avevano del paese invece i socialisti, che quindi in teoria non avrebbero avuto nulla a che fare se pensiamo a cosa sia il socialismo. In realtà invece hanno avuto a che fare, come, perché il socialismo di Craxi è un socialismo capitalistico, cioè Craxi per la prima volta in Italia prova a mettere insieme il pubblico e il privato, quindi lo fa con Gardini, che in Italia è passato alla storia più che altro per il Moro di Venezia, in realtà aveva una società che aveva scalato, la Mount Edison, e la Mount Edison aveva già inventato delle cosette che poi abbiamo utilizzato negli anni 90, per esempio la benzina verde. E Gardini aveva aperto una serie di stabilimenti chimici nell'America del Nord, negli Stati Uniti per l'esattezza, e questi stabilimenti producevano già un biocarburante, quindi quella che noi chiamiamo poi benzina verde, che era sviluppato per automobili già predisposte per una benzina con meno ottani. Quindi la creazione dell'Enimont, quindi di questa società tra Mount Edison ed Eni, avrebbe dovuto portare il paese al primo / secondo posto mondiale nella produzione di combustibile per automobili. Questo progetto saltò tra 89 e 91 e fu la scintilla che poi fece scoppiare di fatto Tangentopoli, perché la famosa maxi tangente Enimont, qualcuno sentirà nei giornali, fu utilizzata poi per anche altri scopi. Quindi in questo preciso momento storico abbiamo il paese che è all'apice di un secondo boom economico, che qualcuno in questi anni continua a sostenere sia fittizio, nella realtà non è che è stato fittizio, è stato gestito male nella parte previdenziale, cioè sono state date delle pensioni, chiaramente, molto, molto agevolavano moltissimo il lavoratore, e che ovviamente ne approfittò di quelle leggi, però portarono il sistema italiano ad avere delle flessioni, o meglio, la nuova Europa che stava arrivando, siccome doveva assorbire il problema del debito tedesco a est, la Germania si era riunita ed era ai minimi storici, non poteva tollerare che in paesi come il nostro, la Francia e anche in parte la Spagna ci fosse una sorta di vita al di sopra di quelle che venivano definite le possibilità del paese. Con questa strategia nel 93 si iniziò il percorso poi dell'euro e si arrivò poi al 2000 e al 2002, ovviamente con una trazione tedesca. E qui bisogna aprire un ulteriore capitolo: il debito pubblico in tedesco deriva dalla parola Schuld, colpa. In realtà il debito pubblico non è un debito, è un investimento pubblico che si fa di solito in settori fragili, che sono la sanità e la scuola. Quindi se tu fai debito pubblico, di solito lo fai perché vuoi avere poi un risultato nella ricerca, per esempio, finanziata dallo Stato. Quindi hai una ricerca che è libera fondamentalmente, o meglio, questa ricerca va dietro agli obiettivi dello Stato, che è molto diversa dal capitalismo non di Stato che piace tanto oggi con Steve Jobs e Elon Musk, perché loro perseguono profitti privati, mettono a disposizione tecnologie private agli stati. Quindi la stessa NASA ha dovuto mettersi d'accordo con la SpaceX e con l'Italia, perché l'Italia è dentro a questo progetto, per andare sulla Luna, perché il reattore di fatto l'hanno coprogettato. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la SpaceX chiede un profitto ai suoi azionisti, cioè i suoi azionisti chiedono un profitto. Se noi privatizziamo quei certi settori, è ovvio che a monte ci debba essere un profitto. Quindi facciamo un'ipotesi di non università pubblica: io ho una grossa azienda, do dei soldi all'università, sembra filantropia, in realtà l'università mi deve ragionare su certe questioni, su altre a me non interessa. Brevettano una roba che va contro gli interessi aziendali, io non la brevetto. Quindi, per farvela breve, i famosi ragazzi Majorana, Enrico Fermi, eccetera, eccetera, con un sistema privato probabilmente avrebbero scoperto la bomba atomica prima, perché li avrebbero foraggiati, ma molto probabilmente quella bomba atomica sarebbe finita nelle mani di Mussolini o Hitler. Con un sistema pubblico, e lì vennero praticamente utilizzate poi le future poi leggi razziali, fecero scappare vari geni anche dall'Italia, ma con quel sistema pubblico, quel brevetto, per esempio, fu discusso e dibattuto in più università e non fu tenuto segreto, non aveva senso tenere segreto. Quindi lo stesso Majorana, che scomparve in circostanze misteriose non si sa bene come, si fece ebbe dei problemi. Ma per esempio Marconi, che è noto, fece degli studi anche sulle armi elettromagnetiche, eccetera, essendo molto cattolico, parlò con gli altri accademici e disse: siamo sicuri che questa roba la possiamo dare in mano ai politici? Nonostante Marconi fosse tranquillamente iscritto al PNF, avesse tutta una cosa, però lo Stato comunque non aveva un controllo totale, nemmeno durante una dittatura. Quindi e la Francia è capostipite di questo modus. In Francia hanno creato l'Accademia proprio per quel motivo, per essere indipendenti dal privato. Negli Stati Uniti e nella Gran Bretagna invece abbiamo un filone completamente privato, quindi grossi capitalisti che danno soldi alle università e poi la maggioranza dei tecnici vengono assunti dalle case che producono armi, per esempio. Faccio un esempio. Quindi il capitalismo di Crax, in quel caso, quindi lui era un capitalista senza capitale, lo trovò all'interno delle aziende pubbliche, che a quel tempo erano potentissime perché avevamo l'IRI. Però l'IRI era controllabile. L'idea era controllata dallo Stato. Adesso abbiamo una miriade di roba che invece non è tanto controllata e a pezzi venduti sul mercato azionario. È la differenza tra questi anni da bere e questi anni di oggi, è che è sbagliato, a mio avviso, dire che quegli anni hanno creato un bubbone di debito pubblico e siano stati anni fittizi, dando degli italiani, probabilmente a chi è anche in sala, dello spendaccione di sopra le proprie possibilità. Non è così. In realtà quegli anni hanno visto una forte ricerca pubblica, un forte investimento nella scuola, nella ricerca, nell'università, nella sanità, perché la sanità italiana attualmente è quinta al mondo con tutte le sue problematiche, ma ricordatevi che in quegli anni era arrivata nei primi tre, e la scuola italiana nel 2000, la scuola primaria, era seconda al mondo. Quindi quegli investimenti non è vero che erano buttati via, avevamo delle eccellenze che venivano a vederci dalla Cina. Gli istituti tecnici italiani sono stati copiati dalla Cina, l'IRI è stato copiato dall'attuale Partito Comunista Cinese. per farvi capire che quella roba non era una roba tirata per i capelli, buttata lì perché Craxi aveva delle idee, è perché c'era dietro tutto uno studio che partiva da geni come Moro, Pasolini, era un teorico del capitalismo di Stato, nessuno ne parla mai, però quando lui scrive Petrolio si domanda effettivamente in che mani sia finita l'ENI. Petrolio di fatto è la denuncia dell'uccisione di Enrico Mattei, l'uomo che di fatto ci ha portato nel boom economico, quindi è con un'azienda di Stato, ed è morto quando l'hanno ucciso, non aveva soldi per sé, la sua famiglia non si era arricchita con l'ENI, quindi è questa l'Italia che arriva negli anni 80, è un'Italia che dietro ha avuto questa storia qui, dove lo Stato garantisce un monopolio, ma garantisce anche un accesso un po' alla massa, un po' tanto alla massa, dell'istruzione, che fa la legge sull'inclusione a scuola fine anni 70, noi abbiamo la legge sugli insegnanti di sostegno, non ce l'ha nessuno al mondo quella legge lì, e io lo dico spesso anche a scuola perché non è una cosa scontata, cioè in Germania sono andati avanti con le classi differenziate fino al 2018, quindi voglio dire, esempi non ne abbiamo. Allora, il problema di questi anni da bere scintillanti è stato che poi c'è stata Tangentopoli e quindi si è voluto demolire un intero sistema, non si è demolito il Partito Socialista, si è demolito e si è demolita l'Italia. È stata come la Seconda Guerra Mondiale, con una sorta di autocolpa che è stata data al popolo italiano di essere spendaccione, i pigs, cioè vi rendete conto che mettevano l'Italia nello stesso posto della Grecia? La Grecia ha il PIL delle Marche, non produce praticamente nulla se non delle mozzarelle, ha qualche armatore e fine. Non può essere paragonata un'economia come la nostra, eppure siamo andati avanti anni con questa fantomatica situazione greca. La Germania e la Francia possono essere paragonate a noi, nemmeno la Spagna. La Spagna non è nemmeno tra le 20 potenze mondiali a livello industriale, quindi io non capisco quando venga presa ad esempio, e non capisco neanche certi economisti come facciano a fare a questo ragionamento qua. In Italia c'è stato un periodo in cui se facevi questi ragionamenti eri un pazzo scatenato, oppure eri un tangentaro, oppure... Ricordo anche che ai tempi della Milano e dell'Italia da bere, il discorso della corruzione va preso anche lì con le molle, perché in Italia abbiamo delle leggi particolari sulla corruzione che nel resto del mondo non ci sono, quindi i corruttori del resto del mondo non vengono presi e sbattuti in galera. Faccio un esempio: se andate in Azerbaigian e chiudete un contratto, il contratto come lo chiudete in Azerbaigian, in Italia è da galera. Quindi tutte quelle aziende estere che hanno fatto affari con l'Azerbaigian si ritrovano praticamente con dei contratti che teoricamente nel loro paese sono pirata, perché la corruzione che c'è in quei contratti per dare a quella determinata azienda quella risorsa non potrebbe essere fatta in un paese occidentale. E allora quella la consideriamo corruzione, contando che il 90% di quelle aziende sono tedesche, francesi e magari inglesi. Stessa cosa in Cina. La Cina ha un indice di corruzione altissimo per noi, però, perché nel sistema cinese ci sono delle gestioni di queste cose leggermente diverse, cioè c'è anche i romani non avevano la corruzione e ti mettevano in galera se evadevi il fisco, però tu dovevi fare una donazione al governatore romano che veniva assegnato per esempio alla Palestina, lui si aspettava una donazione e non poteva essere carnale. Quindi dovevano essere soldi, cioè non bastava che a Giulio Cesare per esempio in Egitto gli avevano proposto di sposare Cleopatra, lui ha detto sì, guardi, è bellissima come idea, però quanto ci date poi, perché io ci lascio qua una legione, chi è che paga? Perché io ve la lascio, ma chi paga? Io la metto sul trono, chi paga? Cioè l'idea non era una corruzione, però con i nostri occhi è una corruzione, cioè io do to des. Queste pratiche, e non è che nel mondo si siano concluse con l'età antica, sono andate avanti, poi lo Stato di diritto occidentale si è evoluto, l'Unione Sovietica per esempio era un sistema altamente corrotto e tuttora hanno dei problemi in Russia, l'Ucraina è uno dei paesi più corrotti d'Europa, quindi anche lì quando si dice prendiamo dentro tutti, attenzione, perché e mettere dentro certi sistemi in altri... Io voglio capire, ma un'azienda ucraina come farebbe ad essere competitiva con le norme europee? Abbiamo già problemi con tutto l'est, perché oggettivamente ci sono dei problemi. Anche adesso è entrata la Croazia, però se noi facessimo un'analisi tecnica della giurisprudenza della Croazia ci rendiamo conto che se noi facessimo come fanno certe aziende croate ce la chiudono domani mattina. Quindi io faccio sempre questa battuta: se Steve Jobs fosse nato in Italia probabilmente non avrebbe inventato la Apple, perché sarebbero arrivati in NAS, perché erano dentro nel garage, ma no, non puoi attaccare il computer alla presa perché c'è la presa forza del condominio, ti arriva la denuncia dell'amministratore, cioè funziona così. In America no, in America se tu hai un'idea puoi tranquillamente farla e eseguirla in un garage, e quando poi dalla startup passi all'alto finanziamento non ti vengono a chiedere tutti gli incartamenti che ci sono da noi. Se voi provate qui a inventarvi un'azienda, non è più finita. Siccome Craxi conosceva questi sistemi, aveva bypassato quella questione statale. E tutto questo poi si riflette in quella che è l'architettura anche di quell'Italia che aveva ereditato l'Italia da bere. Cioè, io qui ho preso una bella foto di Bolzano, adesso la metto qui, della stazione di Bolzano, una foto questa che risale agli anni 50 più o meno, ed è questa piazza rimase così fino agli anni 80 più o meno, con un po' più traffico. Perché questa piazza è importante? Perché questa stazione fu creata nell'Ottocento e costruita, ma il campanile, per esempio, e come è fatta proprio, come è strutturata, imita quella di Londra. Quindi a Bolzano avevamo già un sindaco, un borgomastro per essere precisi, che andava già a spulciarsi l'architettura, per esempio, vittoriana, cosa che era un po' inusuale perché l'impero austro-ungarico aveva tutto un altro tipo di architettura, tutto un altro tipo di... È interessante perché Bolzano non fu una Bolzano da bere solamente negli anni 80, ma se andiamo a ritroso fu una Bolzano da bere anche all'inizio del Novecento, grazie a un borgomastro tedesco, Peratoner. Perché fu una Bolzano da bere anche in quel caso lì? Perché Peratoner, per andare contro alla dieta austriaca che continuava a Innsbruck a mettere il cappello su ogni singola iniziativa di Bolzano, lui cosa fece? Puntò totalmente sulla tecnologia, quindi costruì teleferiche, i lampioni furono elettrizzati, ci furono tutta una serie di monumenti anche costruiti con una tecnologia nuova, il tram, eccetera, eccetera. Quindi di fatto Bolzano si ritrova in una situazione abbastanza privilegiata perché tutte le risorse del comune in quel caso lì andavano alla costruzione di opere. Poi, caduto l'impero austro-ungarico e arrivato il fascismo, si ritrovò di nuovo in una situazione privilegiata perché Mussolini disse: no, dobbiamo metterci soldi e portarci persone perché non dobbiamo avere polemiche lì, quindi dobbiamo avere il massimo del massimo. Infatti hanno inaugurato la prima trasmissione radiofonica facendo l'inaugurazione del Monumento alla Vittoria. Perché l'hanno fatta a Bolzano? Perché volevano far vedere che investivano sulla nostra città. Quindi c'è stato un secondo momento in cui nella nostra città ci fu un approccio molto molto tecnologico, chiamiamolo così, con anche persone illuminate durante il regime fascista, perché ci furono anche lì, teorizzarono un piano regolatore di un certo tipo che poi ci siamo tenuti anche dopo la guerra, e poi più o meno la città era stata risistemata in quegli anni e rimase così fino agli anni 80, e comunque resse tutta la popolazione. Ricordate anche il rione operaio, alla fine le acciaierie e company hanno tenuto la nostra città a galla. Ecco, questa è una foto particolare perché è Druso, e sarebbe quel generale romano, Druso il Germanico, che avrebbe dato là alla creazione della nostra città. Quindi questa l'avevo messa perché insomma mi sembrava giusto dare un contributo anche a chi. Ecco, vedete, questo è il virgolo, per esempio. Il virgolo ha funzionato, infatti è andato poi in disuso dopo il 2000 perché alla fine si è sempre trascinato fino a... Però questa è una scena che noi abbiamo avuto, è uno scorcio della nostra città che si può avere, che si poteva avere tranquillamente dagli anni 50 fino agli anni 80. Ed è per questo che a mio avviso, da un punto di vista sia sociale che sociologico, è per questo che c'è una grande nostalgia di questa Bolzano da parte dei bolzanini. Perché il periodo non sono stati 10 anni degli anni 80, in realtà quella città è durata 40 anni. e chi era nato qua, chi ci aveva lavorato, chi era arrivato dopo, aveva visto quella città che è rimasta immutata fino al 2000. Dallo stadio del ghiaccio di Via Roma fino al 94 l'abbiamo tenuto. Quindi la fiera è stata lì. Quindi questo è importante, perché uno dice ma alla fine degli anni 80 non... Infatti se io ho fatto uno scandaglio di fotografie su social eccetera, non c'erano foto degli anni 80 diverse. Tanto valeva usare le foto degli anni 50 e 60, che sono più belle, hanno meno persone, ti fanno capire meglio gli edifici, ma non c'erano edifici degli anni... Ecco, negli anni 70 sono stati costruiti degli edifici come quello di Via Roma, che hanno però ripreso un po', diciamo, la moda post-guerra, quindi non sono edifici così diversi come può essere il Museion, che è un edificio totalmente diverso rispetto all'architettura che c'è lì intorno, o l'università, che è un cubo all'interno di un paesaggio austriacante, no? Perché quella è proprio la città vecchia, la città di Altman, insomma. Ecco, questo era il Virgolo, che era un po' una Bolzano chic, dove comunque all'inizio del secolo andavano persone anche di un certo livello. Il turismo che c'era a Bolzano ovviamente era un turismo di alto livello, perché ci venivano a fare le ferie re, regnanti, eccetera. Quindi così. Ecco, questo per esempio è il parco della stazione, e ho deciso di utilizzare questa foto perché si vede proprio la torre della stazione, e si vede quel parchetto che poi adesso è stato eliminato perché ci stanno costruendo. Però come vedete la stazione era un simbolo della città, perché la città andava in movimento, c'era il treno, quindi all'inizio del Novecento era stata proprio messa nelle condizioni di essere qualcosa di importante, e negli anni poi che furono rimase in una posizione importante, perché il treno rimane importantissimo per tutto il Novecento e tuttora. Adesso è tornato di moda perché c'è la questione ecologica, però in realtà il treno non ha mai smesso di essere un mezzo di trasporto. Ecco, questo è il tram. Il tram è finito negli anni 80, non c'era, però è significativo per la nostra città, perché questo trenino qui che vedete in questa foto invece è il pezzo di tram, è la motrice che poi andava fino a Renon, cioè qui poi veniva agganciata un'altra piccola motrice e andava fino a Renon, e poi si faceva tutta la vecchia ferrovia, un pezzo c'è ancora, eccetera. Quindi per far capire che la città aveva tutta una serie di escamotage, come vedete che anche adesso qui hanno tolto il tram, per esempio, qui è stato tolto il tram, però inizia ad essere quella Bolzano che dedica molto tempo al turismo, che dedica tempo ai bar, che dedica tempo ai pub. Ovviamente sono pub diversi rispetto a quelli della disco music anni 80. A dirvela tutta, negli anni 80, facendo delle ricerche anche sulle feste, vi posso garantire che ce n'erano meno degli anni 70. Una cosa che mi aveva fatto sorridere ancora quando ero ragazzino, le feste al Lido. Io le feste al Lido le avevo viste solo in foto, me ne aveva parlato mia nonna, che abitava in centro a Bolzano negli anni 30, e prendeva l'autobus, cioè prendeva lei diceva torpedone, ma in realtà era un autobus, che la portava al Lido. Quindi i bolzanini degli anni 30 avevano le feste al Lido col servizio autobus. Io che ero un bolzanino, vabbè, ero giovane, andavo ancora alle scuole elementari, però noi negli anni 80 non ho mai visto le feste al Lido. Quindi negli anni 80 in realtà c'era meno rispetto agli anni 60, non c'era il mercatino di Natale, che è nato alla fine. Non c'erano tante cose, c'era la partita di hockey, che era molto importante, ma i bar li trovavi chiusi il sabato pomeriggio. Quindi era una città che viveva sul turismo, ma fino a un certo punto, perché il turista andava poi in montagna. Negli anni 80 però, e sono molte le foto di bolzanini agli Oclini, di bolzanini più che altro agli Oclini, perché molti andavano e non sciavano. Andavano, se vi ricordate, andavano di moda anche quei moonboot con tutto il pelo, ed era una moda però importata da Milano. in realtà non era una moda di nostra, ma erano i milanesi che si vestivano così, e il Moncler per esempio è famoso perché Cortina, Valgardena, eccetera. Oberegen al tempo ancora non era così, si andava più che altro per sciare o c'era qualche gara, era considerata una zona molto fredda e un po' insomma non proprio e quindi era meglio gli occhialini con l'aperitivo e con tanto altro. E un po' negli anni 80 i bolzanini la domenica si riversavano agli occhialini, infatti la città aveva i negozi chiusi, le strade erano vuote, non c'era il mercatino, ripeto, e in estate andavano al Lido. Quindi il bolzanino italiano al 90% sa sciare, non sa sciare ma sa nuotare. È una cosa un po' strana, tutti pensano che sappiamo sciare. Questa è una, è sempre la stazione, questa era solo una foto bella con la neve, proprio per far capire la città a quel tempo che aveva anche una sua magia, che ha un, forse ha un po' perso. Ecco, questo è invece l'emblema degli anni 70-80, il famoso ponte militare che collegava la città vecchia, diciamo, la città nuova. Sapete, c'era stato un incidente sul ponte Talvera, e un autobus o un camion erano andati sul marciapiede, il marciapiede non era tarato per le automobili e quindi era crollato un pezzo di marciapiede, era stato chiuso il ponte, poi si è pensato anche di demolirlo, ma poi i bolzanini andarono in piazza per non farlo demolire, perché il ponte, ricordo, del Novecento fu voluto proprio così imponente, perché dava l'idea di andare dalla città vecchia alla città nuova, città nuova che nel Novecento era ovviamente minimale, fu poi aperta, diciamo, quella parte di Bolzano con il fascismo e con tutti quei palazzi che potete vedere oggi nelle due bisettrici. Esatto, Corso Libertà, eccetera, eccetera. Sono due, ecco, quello è un rione, quello è il Foro Mussolini, quindi il Foro della Vittoria è il Foro Mussolini, il copia e incolla che c'è all'Eur. Mancava l'obelisco, che non l'hanno fatto in tempo a portare, avrebbe dovuto, il ponte Talvera l'avrebbero lasciato così, però avevo letto che l'idea era quella di creare una sorta di isola tiberina sul Talvera, quindi il Talvera avrebbe avuto una sorta di passeggiata creata artificialmente, e probabilmente le passeggiate del Talvera sarebbero state fatte in un altro modo, magari più monumentale, con evidentemente personaggi del regime, eccetera. A Bolzano una delle piazze più importanti, infatti era Piazza Tribunale, era dedicata ad Arnaldo Mussolini, lì c'era l'ufficio del fascio generale, quindi la casa del fascio, che sono gli odierni uffici finanziari, il famoso busto di Mussolini che non era ancora stato messo su durante il fascismo, l'hanno messo su dopo, il bassorilievo. La cosa importante che non dice mai nessuno, la chiesa Cristo Re non aveva il campanile perché a Mussolini non piacevano le campane. Perché le campane gli davano noia e la chiamata alla messa era un qualcosa che richiamava al Mussolini anticlericale. E allora, anche se erano stati firmati i patti lateranensi, anche se l'azione cattolica era tollerata, Mussolini e i suoi architetti disse: va bene tutto, però vicino al tribunale e vicino alla casa del fascio il campanile non ce lo voglio. Quindi la casa del fascio era... Cioè, se vogliamo essere proprio onesti, è molto più simbolicamente pesante la casa del fascio del Monumento alla Vittoria, perché la casa del fascio ha davanti il tribunale, di fianco la chiesa, e indica la sottomissione del potere della magistratura e del potere della chiesa. E il campanile no. Il campanile del fascismo a Bolzano è all'Eurac. Quando, se voi venite da Ponte Druso, vedrete il campanile dell'Eurac che spunta. Quel campanile è un campanile laico che nell'idea doveva irradiare con la cultura del regime, eccetera, eccetera. Quindi, se vogliamo ancora essere pignoli, è peggio l'edificio dell'Eurac, che sono tutte delle L di Littorio, l'architetto lì deve essere diventato matto perché ha dovuto farlo, e che il Monumento alla Vittoria, che di fatto paga la scritta, perché la scritta, se sapete, no, è un po', viene usata la parola, insomma, c'è la freccia che segna verso l'Austria. Però quel monumento, che la vedova Battisti non ha mai riconosciuto come monumento, doveva essere monumento a Cesare Battisti quello, poi è stato ribattezzato Vittoria perché la vedova si era rifiutata di... La vedova di Cesare Battisti, forse qualcuno non lo sa, conosceva molto bene Mussolini, che era stato ospite, non proprio desideratissimo, a casa dei Battisti durante la sua permanenza ante Prima Guerra Mondiale nel giornale di Battisti, e Mussolini era stato buttato fuori dall'impero austro-ungarico perché si era macchiato di racconti erotici che avevano come protagonisti degli alti prelati. Quindi lui aveva avuto una serie di gossip particolari, aveva scritto questi racconti di denuncia di questi prelati che avevano giri di donne, eccetera, ed era stato beccato e buttato fuori. Ovviamente Battisti lì aveva avuto dei problemi, aveva dovuto pagare anche una multa, lui aveva il giornale, hanno rischiato di fargli chiudere il giornale. Non è stato espulso per il patriottismo, come qualcuno aveva raccontato, e neanche per il nazionalismo, era abbastanza tollerato. Non era però tollerato che si toccassero i prelati. E quindi la vedova che conosceva Mussolini, lo aveva conosciuto nel periodo socialista, quel periodo era amico di Nenni ancora, eccetera, conosceva proprio il modo di fare, il modus, e quindi non volle legare il nome di Battisti a quello di Mussolini fascista. E ebbe anche ragione, probabilmente, perché se avessero dedicato quel monumento avrebbero infangato la figura probabilmente di Cesare Battisti, e non ci avrebbero sicuramente poi dato piazza, eccetera. Battisti non aveva niente a che fare col fascismo, era morto prima, e in più era un socialista, quindi lui aveva conosciuto Mussolini da socialista. Chiaro che poi Mussolini era un socialista interventista, ma lo era anche Battisti. Battisti l'hanno arrestato perché l'hanno trovato con la divisa del Regio Esercito, quindi poi è stato condannato per diserzione. Quindi voglio dire, eravamo su piani un po' particolari, erano anni un po' di cambiamenti anche. Quindi questa visione però di Bolzano è la visione che più o meno ricorda gli anni Ottanta, perché nel 90 il ponte è stato smontato e si è ritornati a passeggiare sul ponte Talvera. E quindi questo è uno degli emblemi di quella Bolzano. Non è un grande emblema, perché questo è un ponte militare, e quindi insomma fa vedere che c'era anche un gran rumore con la macchina quando ci passavi. Insomma, non è che sia proprio la Bolzano da bere, sembra più la Bolzano militare da questo punto di vista. Quindi però è uno dei simboli degli anni Ottanta, paradossalmente è uno dei simboli. Poi io ho trovato anche delle altre fotografie. Qui questa era una fotografia del ponte Talvera, invece nello splendore anni 50 e 60, come vedete, la torre del museo non c'è, è stata poi ricostruita, era stata demolita durante il fascismo per dare la profondità e far vedere le montagne quando si camminava sul ponte, perché se voi questa foto è stata fatta dall'alto, quindi dalla scalinata del monumento, quindi è ovvio che le montagne si vedono, ma se voi camminate dal ponte non si vedono, cioè perché la torre te le blocca. Allora era stata demolita per quel motivo, poi è stata ricostruita proprio negli anni 90. Quindi Bolzanini avevano questa idea con la biblioteca, che a quel tempo poi aveva il bar sotto, eccetera eccetera. Quindi avevamo una Bolzano molto molto particolare. Fa specie che nella nostra città le foto degli anni 50, 60, 70 e 80 siano uguali. Io ho fatto delle ricerche, in nessuna città d'Italia c'è questa roba qui. Proprio la città è rimasta praticamente immutata, tranne, ripeto, qualche edificio che è stato costruito, anche le strade, anche via Ledruso è stata allargata, per carità, però non sono lavori che hanno tolto una certa identità, no, erano lavori di contorno, di manutenzione. Ecco, qui è il monumento dall'alto, come vedete il monumento ha una sua è molto particolare, perché è proprio un altare, e c'è un monumento gemello a Genova. Ovviamente quello di Genova è molto più grande di quello di Bolzano, però è gemello, è uguale, identico, ed è stato proprio incassato nella città, come vedete qui. Vedete i binari del tram, c'è un binario poi che va a Gries, e l'altro binario da questa parte invece va all'autorimessa. L'autorimessa era dove adesso c'è la Banca d'Italia. Quindi i tram andavano lì dentro, c'è un piccolo archetto dove c'è il Diva Automobili, entravano lì ed erano posizionati lì e gli facevano manutenzione. Ecco, questa è una visione più moderna col serpentone dell'autostrada, lo faccio vedere anche chi è in diretta Facebook, ed è proprio emblematico vedere, qui vedete la divisione proprio della città con la zona industriale. Quindi qui abbiamo alla mia destra, anzi, la parte nuova, che non era edificata un tempo, che però negli anni 80 era edificata. C'era il Luna Park, se ricordate, sotto il ponte, sotto praticamente quella che oggi è l'Arginale, lì andava il Luna Park, e poi c'era tutta la zona industriale, che adesso è più zona produttiva perché industria è rimasta l'acciaieria, l'Iveco così perché comunque è assemblaggio, e quindi insomma la città era stata strutturata un po' diversa rispetto all'inizio del Novecento, però rimase così. Cioè io quando ero bambino ricordo la città con la zona industriale ancora attiva, addirittura vedevi anche qualche treno sui binari della zona industriale, cosa che io poi non ho più visto negli anni 90, vedevi qualche treno che si muoveva e fabbriche che ancora funzionavano con persone che ci andavano a lavorare. Adesso, a parte le acciaierie, ripeto, non hai più questa cognizione di quella zona. La Lancia, assolutamente, il magnesio. Questa non siamo più nella Bolzano da bere, però era per farvi capire la differenza e lo stacco che c'è stato in questa città. Cioè, un edificio del genere è completamente avulso dall'architettura della qui. Allora, questo edificio viene inserito nella Bolzano di Altman, cioè del fine 1800, ed è uno stile che non ha nessun tipo di senso rispetto al resto. Allora qui bisogna un attimo farsi due domande e capire se l'architetto voleva far dirci: guardate che l'ho fatto io, e quindi adesso ve lo ricordate per i secoli, perché e lo fanno delle volte gli architetti. Vasari diceva che fare l'architetto è bellissimo perché tu cammini nei tuoi sogni. Lui si sognava la roba, lui però era un rinascimentale, quindi aveva un certo tipo di gusto artistico. Qui invece rischiamo di andare sulle pacchianate delle volte, quindi un edificio del genere, che a me personalmente piace nel suo essere, ma lo trovo talmente decontestualizzato che quando ci bevi sotto un caffè sembra di essere, non lo so, trovo molto più artistico andare a bere un caffè al Noi, che è una vecchia fabbrica, perché mi sento più a mio agio in quell'architettura. Questa mi sembra un'architettura che va bene per Parigi, nella zona della famosa piramide, dove è un'architettura che va bene per Parigi. Nella città no, nella nostra città, che è una città che è tra l'austriaco e l'italiano, che ha pezzi fatti con un certo stile, pezzi che sono fatti in un altro modo, insomma forse questo forse andava collocato in un'altra zona, magari poteva essere collocato da qualche altra parte. Qui diventa difficile, ormai ci siamo abituati. È chiaro che io avevo chiesto ai miei alunni, ovviamente, che erano piccoli, e per loro era ormai entrato nel tessuto, e quindi non ci fanno caso. Se ci sei nato l'hai sempre visto, però per chi aveva visto prima senza questo edificio, effettivamente tra questo e l'università un po' di idee te le fai strane quando fai un giro nella città di Bolzano. Ecco, questa per esempio era è tuttora via Torino, come vedete queste sono case. Questo era il rione detto Littorio, che poi negli anni 80 rimane uguale, adesso più o meno è uguale, e avrebbe dovuto andare a prendere tutti quegli italiani, insomma altoatesini, che lavoravano non nelle fabbriche ma più o meno nel terziario. Quindi questo era il rione dedicato a chi era un gradino sopra alla classe operaia. Noi poi Gries lo conosciamo, noi poi abbiamo anche il rione monarchico, che è quello delle Venezie, quindi il rione San Quirino è una parte tutta monarchica. Viale Venezia dedicata a Casa Savoia, ci abitavano praticamente tutti i monarchici. Ricordo che durante la diarchia Mussolini re, la monarchia non si voleva mettere in mezzo ai fascisti. Io ricordo che anche mio zio mi raccontava che c'erano distinzioni anche quando per esempio c'era un alzabandiera, c'erano distinzioni quando si andava a fare, sì, erano proprio, cioè, i monarchici avevano un certo stile, loro erano lì per il re, rappresentavano la casa Savoia e non volevano immischiarsi con camicie nere. Poi è chiaro che vennero inquadrate le squadre nell'esercito, quindi le squadre fasciste vennero inquadrate come camicie nere, ed è chiaro che quei militari avevano il bavero nero, avevano tutta una serie di simbologie, però è come successe poi in Germania. Rommel era un generale aitante ed era di provata fede, quindi gli fecero fare il salto di carriera pur non avendo delle origini nobili. Von Paulus, che era il comandante delle forze che combatté in Russia, che si arrese poi risparmiando la vita a non poche persone, perché Hitler avrebbe voluto far macellare completamente l'armata tedesca a Mosca, praticamente tra Stalingrado e Mosca. E von Paulus von era un nobile, quindi lui veniva da tutta quella tradizione dell'impero proprio tedesco, e i generali tedeschi avevano una grandissima avversione nei confronti di Hitler, che era un semplice caporale. I generali italiani erano diversi, perché i generali italiani come Badoglio e ad esempio Graziani erano semplicemente dei collezionisti di medaglie molto spesso, quindi a loro il regime fascista lo utilizzarono per far carriera. Quindi Graziani fece carriera in Libia, Badoglio fece carriera con la guerra d'Etiopia, poi però scaricò il regime Badoglio. Graziani no, Graziani lo scaricò ma ci rimase il suo salò, poi lo riscaricò, poi... Però i nostri generali, ricordo che Rommel stesso aveva fatto un encomio alla truppa italiana, aveva detto: io i migliori soldati ce li ho italiani, non tedeschi. Però hanno tra i peggiori generali, perché il generale Graziani in Africa stava in una tomba romana a 170 km dal fronte. E Rommel stava al fronte e non guardava se avevi i capelli tagliati o se avevi il fularino d'ordinanza, diceva: andiamo a combattere. Stessa cosa che faceva Balbo, che morì all'inizio della guerra. Balbo era un po' così, trasvolatore, un po', ecco. Quindi c'erano, anche nel fascismo c'erano queste devianze, eccetera. Però ripeto, chi stava dietro alla monarchia aveva e voleva avere una ben distinta collocazione, e lo fecero anche con un rione a Bolzano, cioè non si mischiarono nel rione fascista. Questo poche volte l'ho sentito dire. Ecco, questa per esempio è la piazza Adriano, che fu battezzata Piazza Adriano, poi fu sbattezzata dopo la guerra, poi riprese il nome, il famoso parchettino che adesso è gestito diversamente, poi c'era anche il palazzo dell'ex Fiat, se vedete, sono queste enormi strade, no? Per un po' strade che ricordano la strada da Parata. È importante la via Duca d'Aosta, dedicata al Duca, ma appunto lì siamo in un frangente in cui stiamo dedicando una strada a un eroe, e quindi l'eroe può anche essere messo all'interno. In realtà quella via era dedicata ad Augusto in origine, poi cambiò in via Duca d'Aosta, in realtà era Augusto e viale Giulio Cesare, poi fu modificato in Corso Italia, ma in realtà erano i due imperatori, era il rione nuovo, e quindi si voleva dare questo scatto di romanità. E come vedete in questa foto spunta il campanile di Cristo Re, perché ovviamente il clero appena ha potuto l'ha edificato, perché invece le campane dopo la guerra servivano e come a richiamare i fedeli. Questa è via Druso, ovviamente questa è una foto degli anni 30, e c'era ancora la farmacia, si chiama Farmacia San Quirino, ed è una foto che porta appunto al ponte Druso, che è il ponte gemello del ponte Talvera, cioè il ponte Druso è il ponte che venne costruito come antitesi al ponte Talvera, cioè era il ponte italiano che andava in città, confrontato al ponte invece costruito in impero austro-ungarico. Qui è un'altra bella immagine del ponte Talvera, che come vedete questa è una foto che è degli anni inizio anni 70, è uguale a quella di prima degli anni 50, non è cambiato niente. Vedete che la città di Bolzano è uguale? Adesso chi ha ricordi qui? Ecco, questo è il motel Agi, quindi qui ancora non c'era l'autostrada, motel Agip. Pensate che questi erano dei motel che nel mondo non è che avessero tanti eguali, perché fu un'idea di Enrico Mattei di dare ai viaggiatori un posto dove lavarsi. Lui personalmente girava per i motel e vedeva se erano adatti ai camionisti, adatti agli agenti di commercio, perché diceva: noi vi diamo la benzina, è vero, ma vi dobbiamo anche dare un posto dove lavarvi, vi potete riposare, il viaggio rimane più... E in realtà la stazione di servizio come la conosciamo fu un'invenzione dell'ENI. Poi in America c'avevano già i motel, però l'idea di motel americano era diversa. Noi era proprio un motel a misura di lavoratore, il lavoratore che è sempre sulla strada. Ci sono delle pubblicità dell'ENI che avevo fatto vedere in un'altra conferenza che proprio vanno proprio in questa direzione, addirittura andava ad assaggiare i menù, insomma. Questa è la Fiat, che quindi è un altro palazzo che fu poi purtroppo demolito che fu purtroppo demolito, ma fa parte di quella Bolzano industrializzata e soprattutto piazzata la Fiat in un posto dove la potessero vedere tutti per far vedere che comunque l'Italia era laboriosa, eccetera. Però questa immagine dell'Italia non smise di andare avanti dopo il fascismo. Ci fu sempre nella testa una sorta di, vedete, questa è la fabbrica delle nostre, è la fabbrica di macchine nazionali. Cioè il messaggio era questo: ecco, questo edificio fu uno scempio che doveva essere evitato, non doveva essere demolito, perché era comunque storico. Hanno demolito anche roba costruita durante l'impero. Vedete, la Fiat qui ha richiamato come erano le fabbriche in Italia a quel tempo e come erano le fabbriche di Olivetti e di Mattei, con al centro gli operai e coi poeti che facevano le didascalie delle pubblicità. Non erano delle fabbriche, cioè Agnelli era il meno competente a livello industriale di tutti. Agnelli, quello, il Gianni, l'avvocato, non aveva un'unghia neanche del nonno, eccetera, perché proprio lui era un viveur, si vantava più che altro di altre cose, però imitò i mostri sacri, cioè Olivetti, lo stesso Mattei. Quindi le fabbriche avevano davanti le fontane, si faceva vedere che comunque anche chi era dentro nella dirigenza comunque aveva un certo spirito non propriamente dirigenziale, cioè erano persone non propriamente dirigenziali come le si poteva pensare. È un po' la fabbrica che ti crea l'aziendalismo. Quindi l'aziendalismo, tu sei legato alla tua fabbrica tuttora, e molti lavoratori, per esempio della nostra Fincantieri, della Leonardo, se voi andate a un'assemblea, io avevo visto un'assemblea sindacale online fatta ai cantieri navali della Fincantieri, gli operai si sono arrabbiati in quel caso con i sindacati perché stavano parlando male dell'azienda. Cioè c'è uno spirito di collaborazione, cioè io faccio parte di un grande progetto, siamo un'azienda italiana tra le prime 5 al mondo che fanno navi e i primi al mondo che fanno navi da crociera. Prima di parlare male, calma. Cioè un po' è uno spirito che hanno in America, noi non siamo abituati. In America, se voi andate a una manifestazione di operai, hanno le bandiere americane, alla bandiera degli Stati Uniti. Voi avete mai visto tricolori alle nostre manifestazioni? No, perché noi ci dividiamo politicamente, cioè l'azzurro del tal sindacato, il rosso, il verde, il giallo, e poi si perde il lavoratore magari all'interno che va per campi. Invece in America, quando c'è da difendere gli operai, questi vanno in piazza e dicono: ok, adesso se non va così noi chiudiamo. È un altro modo, noi abbiamo un modo diverso di fare le cose. Quindi questa è una fabbrica che era un simbolo più che una fabbrica, era un simbolo della città di Bolzano e della Fiat all'interno della città di Bolzano. Questa è Piazza Walter, senza Walter, con le macchine, quindi era un parcheggio, e questa secondo me è la vera Bolzano da bere, perché negli anni 50 e 60 Bolzano ebbe un boom anche di locali aperti ad orari inusuali. Avevo fatto una ricerca di locandine, eccetera, e i locali erano aperti in orari dove non sono aperti neanche oggi delle volte. Quindi voglio dire, la Bolzano da bere a Bolzano è durata 40 anni, a differenza di Milano o di altre realtà. Adesso siamo convinti che basti avere un centro commerciale, no? Okay. Questa è l'espansione del Ponte Druso ed è l'espansione dell'Eroa, come vi ho detto. Se voi vedete bene, l'Eroa che è una L, sono due L e la L poi va avanti con il Lido. Vi ricordo che l'Eurac era dentro nella GIL, Gioventù Italiana del Littorio, ed era tutto un complesso che comprendeva lo stadio Druso, comprendeva la caserma che adesso è la scuola Leonardo da Vinci, e il cinema, certo, e addirittura il cinema era stato anche adibito a teatro femminile, quindi le donne durante il fascismo potevano andare a fare teatro per i fatti loro nel cinema. C'erano queste cose un po' particolari. E se voi vedete qua dove io vado col mouse, insomma, magari da casa non lo vedranno, qui c'era il vecchio Lido, i bagni Gugler, che poi furono. Però come vedete qui siamo ancora alla fine degli anni 30 e come vedete Bolzano è ancora molto molto in costruzione, cioè c'è ancora tanto verde, ci sono ancora tante vigne, ci sono ancora tanti masi all'interno di questa parte. Stiamo andando verso la fine. Ok, ecco, questo è interessante perché questo è il palazzo della Cassa di Risparmio prima del restauro fascista. Questo è un palazzo interessante, vi racconto un piccolo aneddoto che a me hanno raccontato, quindi la fonte purtroppo è deceduta perché avevo 83 anni nel 2006. questo signore mi raccontò una storia che gli avevano detto in famiglia. Praticamente c'è stato un forte terremoto in questi giorni in Turchia, ci fu un terremoto simile in Sicilia nel 1908 e questo terremoto fu talmente devastante che distrusse Messina e il nostro esercito fu impegnato nelle opere di recupero e di ricostruzione. E si impegnarono anche i russi che avevano una nave lì vicino, si impegnarono gli inglesi, si impegnarono anche i francesi, gli austriaci così così, anzi Conrad, che a quel tempo era il capo di stato maggiore, disse all'imperatore che sarebbe stato il caso di attaccare l'Italia, solo che per una serie di questioni l'imperatore lasciò perdere, perché sarebbe stata veramente una pugnalata con un paese completamente. Gli austriaci fecero partire delle grandi manovre in quei giorni, quindi insomma il pericolo ci fu. Mi raccontò questo signore, però ripeto, questa non è una cosa che io, ci avevo scritto un articolo, però ho dovuto mettere gli asterischi che non avevo prove, che una donna molto agitata all'interno del palazzo della Cassa di Risparmio si era lasciata andare una confessione per capire se il marito fosse richiamato al fronte, e lei si confessava con una persona che in realtà era una spia italiana. E questa spia italiana a un certo punto carpì che c'era una situazione molto strana, cioè che il marito fosse stato richiamato a fare queste grandi manovre al confine quindi a Trento, e avvisò i comandi italiani dicendo: guardate che qua si stanno muovendo delle truppe, occhio, perché le abbiamo spostati tutti al sud. L'Italia, diciamo che la cosa storica che ho trovato è che l'Italia in quel momento rispostò le truppe a nord, quindi abbiamo due spostamenti di truppe, e potrebbe essere che qualcuno fece la soffiata. Io non vi so dire se effettivamente questo signore mi raccontò una sua storia familiare. Lui era nato e cresciuto a Bolzano ed era mezzo di origine tedesca, quindi lui era mezzo austriaco e mezzo altoatesino, e non mi è sembrato, cioè non aveva motivo di raccontarmi. Una volta l'avevo incontrato in un dibattito e mi aveva raccontato questa storia, che io non vi so dire se è reale o non reale, però era carina da raccontare, perché potrebbe anche essere andata così in effetti, però non abbiamo delle prove storiche. E del resto abbiamo delle prove storiche che non vengono mai tirate fuori, ma sappiate che per esempio la Prima Guerra Mondiale scoppiò perché di fatto la persona che andò a sparare al re si era, vi ricordate l'arciduca, si era persa nei meandri della città e si ricordò all'ultimo momento che doveva fare un attentato, perché aveva passato una notte particolare, lo studente, e non si capì mai chi gli mise in mano quell'arma, eccetera. Però ripeto, nella storia, e io qui farò con Valeria uno di quei gruppi di lettura che mi ha messo in testa, ho un'idea di far vedere e di far capire episodi della storia che noi non conosciamo. Per esempio, pochi sanno che sono stati gli inglesi a portare Lenin a fare la rivoluzione. Molti credono che Lenin sia andato, che abbia scavalcato le truppe bianche, così in realtà sono stati gli inglesi che gli hanno aperto un corridoio, perché avevano bisogno che la Russia uscisse da quella guerra in un certo modo. E quindi insomma sono tutti episodi anche questi, che se il colpo Zurigo dei servizi segreti italiani, che ruba in pratica tutti i nomi delle spie austriache in Italia, perché l'Italia stava subendo degli attentati nei propri porti nella prima parte della Prima Guerra Mondiale, e ci fu un colpo proprio da 007 a Zurigo da parte della nostra Marina Militare. A quel tempo i servizi segreti erano sotto la Marina, dopo sono diventati un po'... ci sono i servizi segreti civili, insomma, però a quel tempo sono male. Quindi questo palazzo mi è tornato in mente per questo episodio, che è anche spionistico. Bolzano comunque è anche una città di spie, non viene mai detto, ma essendo sul confine, questa era una cosa antica, quindi si trova in Alto Adige e testimonia appunto la dominazione romana che non fu poi così. Ecco, questa è l'ultima immagine, ed è un'immagine un po' di una Bolzano molto frizzante, in quel tempo in cui le macchine hanno tanti colori sgargianti, siamo nel boom economico. Però sono sincero, io di quei camion non ho ricordi ovviamente di quel modello di camion, però è la Bolzano che io ricordo quando sono ragazzino, cioè non caotica, però brulicante, non non si è anche un po' incattivita come città, era una città un pochino che viveva un po' più con leggerezza tante cose, secondo me. Si è molto incattivita e io sono dell'avviso che molte volte anche gli italiani che sono arrivati qua dopo non hanno capito molto bene come prendere tutta la nostra storia, forse perché gliel'abbiamo spiegata anche noi non benissimo, ma sono contento di poter fare queste iniziative, perché proprio io penso che la storia debba essere condivisa, debba essere gestita in un certo modo, appunto per evitare che poi vengano fuori questioni come in Ucraina, dove guardate che in Ucraina è scoppiata la guerra perché gli hanno spiegato male la storia, nelle università ucraine dicevano che Russia era tutti brutti e cattivi, viceversa. Quindi insomma, ripeto, le università finanziate da certi enti creano poi dei problemi. In Ucraina sono tutte finanziate dallo Stato americano le università, quindi è ovvio che all'interno non si potesse parlare bene dell'Unione Sovietica, per farvi un piccolo esempio. E quindi io ho concluso, spero di non essere stato noioso, e vi ho fatto però solo vedere che la nostra città è stata immobile per circa 40 anni, però forse quei 40 anni sono stati vissuti in un certo modo, con leggerezza, con tanti sentimenti, e che forse questa nostalgia che io sento in tanti bolzanini è proprio per questo, perché in realtà non è durata 10 anni la Bolzano da bere, ma ne è durata 40. Se avete delle domande, qualcosa da dire? Interessantissimo. Dopo questi 40 anni, cosa ha fatto scattare questo cambiamento che c'è? Ma guardi, secondo me l'ha fatto scattare ovviamente un aumento della popolazione, quindi chiaramente sì, il bisogno della casa, eccetera. Però secondo me sono state delle politiche proprio, cioè si voleva dare un taglio diverso alla città. Oppure si voleva proprio dire: adesso abbiamo una certa fase politica e vogliamo dare noi la nostra impronta. I politici fino al 90, i sindaci eccetera, erano molto restauratori, cioè tendevano o a lasciare così com'era o provare a fare come hanno fatto con l'Eurac, cioè a tenere un edificio, però ne hanno anche demoliti tanti, perché il Bristol ne hanno demoliti tanti, e non solo della parte, molti dicono hanno demolito solo la parte creata nel ventennio, no, in realtà se uno fa un'analisi ne hanno demolita quasi di più la Bolzano vecchia, proprio antica, e se vi ricordate anche con le mura, perché Bolzano non può avere dei pannelli dove ci sono le vecchie mura, noi camminiamo su queste mura, ma perché non mettono dei pannelli di cristallo e vediamo dove finiva la vecchia città? Cioè io quello che mi chiedo è, l'anno scorso abbiamo fatto una bellissima rappresentazione teatrale al Lido, e ringrazio anche uno dei rappresentanti di quel teatro, il piccolo teatro di Merano, con degli attori dove abbiamo fatto vedere che cosa succedeva nella Bolzano anni 30 al Lido. E io mi chiedo, la maggioranza dei bolzanini ormai è una memoria storica, perché molte persone che avevano assistito a quella conferenza, chiamiamola conferenza ma era più uno spettacolo, mi aveva chiesto poi libri, perché proprio si è persa la memoria storica, cioè è stata abbattuta la città e abbattuta la memoria storica, non succede nelle altre città, cioè a mio avviso, lo dico tanto adesso non sono più registrato, a mio avviso la politica in questo caso ha fatto dei grossi danni, perché non ha messo al centro l'interesse del cittadino, ha messo al centro l'interesse di dover dire ho fatto qualcosa, secondo me. Anche adesso tutta questa polemica sul vecchio Pasqua, è un edificio che si poteva recuperare in mille modi, scuola di rotazione, si poteva fare mille cose. Si parte dopo con progetti, va bene, va tutto bene, però diventa. Io vedo che molti bolzanini sono ormai quasi disillusi, ma sì, tanto lo buttano giù, ma sì, tanto. Non è più solo il cinema corso, non è più. E poi questi edifici nuovi, il museo a me non dispiace, perché quando l'hanno inaugurato, avevo ancora 27-28 anni, si va a bere lì l'aperitivo, quindi è diventato un luogo di ritrovo, però è un luogo di ritrovo dei ragazzi. Molta gente non va neanche a visitare il museo. Allora io dico, ha senso fare le cattedrali per poi fare delle iniziative dove ti trovi due o tre persone, o comunque se ti trovi persone è perché c'è la conferenza stampa, perché è ultra pubblicizzato, non so, io la città l'avrei gestita in un modo diverso, questo è sicuro, ma l'ho detto più volte anche in dibattiti di politica, come giornalista ho fatto domande, Penso anche che ci sia una società un po' dei like, quindi il sentimento del pubblico oggi va bene, domani non va più bene, questi non hanno paura di spostare tutto, allora piuttosto lasciano com'era oppure fanno danni, perché ecco, questo secondo me ha rovinato molto la città, più anche addirittura il paese, se vogliamo essere pignoli e rompiscatole. Penso che sia questo. Credo, e lo dico contro anche le mie generazioni, che le generazioni che ci hanno preceduto avessero una cultura superiore per certe cose e avessero una conservazione, anche se non avevano il master, non avevano studiato, avevano uno stato di conservazione migliore di quello che abbiamo noi con i master e con le università e con tante altre cose. Lo dico contro di me perché sono un insegnante, sono all'interno dell'università, quindi lo dico contro di me. Lo stato di conservazione era superiore in mia nonna, che aveva un'idea della cultura, magari lei non era in grado di capire tutto quello che veniva proposto, però aveva un'idea conservativa. Noi invece abbiamo l'idea di, è vero che il cambiamento è bello, ma il cambiamento deve avere anche, cioè il rinascimento è un cambiamento, ma nella zucca deve venire il cambiamento, non è abbattendo i monumenti o tirando su altre gli obelischi. Cioè, sbaglia Mussolini perché ristruttura tutto in base alle sue idee politiche, ma sbaglia anche chi va a demolire perché fa il Mussolini al contrario. L'altro giorno una ragazza che non era di Bolzano, straniera, si stava domandando del Mussolini a cavallo, ed era una scolaresca. Ha fatto una domanda alla professoressa e gli ha chiesto, ma perché l'ha lasciato? Sì, c'è la spiegazione, ma gliela stavano dando comunque sintetica, e anche quella spiegazione lì, secondo me, andava fatta in un altro modo, perché non la legge nessuno. Allora, non avrei utilizzato, cioè siccome a me piace la cultura è polemica, quindi la cultura non può piacere a tutti, ecco, in quel caso là non avrei usato per esempio la Arendt, che ha una storia molto particolare, che non sto qui adesso a ripetere, però ha una storia particolare. E davanti a un tribunale un po' una scritta che va anche contestualizzata. Per carità, va bene, anzi l'arte che faccia discutere va anche bene, però lì è stato il classico buco nell'acqua. Io abitavo in via Roen, e associavo quella piazza al dentista, perché avevo il dentista in via Orazio. Io non ho mai visto nessuno guardare. Adesso ho l'ufficio lì vicino e vedo un sacco di gente nostalgica che viene a farsi i selfie con Mussolini a cavallo, anche se c'è la scritta, se li fa lo stesso, perché dal 2010 tutta Italia ha saputo che a Bolzano c'è un bassorilievo di Mussolini come non c'è nessuna parte d'Italia. Quindi gli hanno fatto una pubblicità talmente elevata che vengono addirittura i nostalgici da Predappio a farsi, io pieno anche su Facebook, voi scrivete Predappio e vedrete delle foto fatte a Bolzano con dietro Mussolini a cavallo. Quindi è stato fatto un bel percorso per me sul Monumento alla Vittoria, è stato fatto uno schifo col ponte d'Uso, perché togliere le aquile non aveva avuto senso compiuto. Quindi facciamo sempre un po', no? Le cose un po' così, e mettere dei bracieri. Chi ha messo quei braccieri sul ponte d'Uso forse si è dimenticato che Hitler non usava più l'aquila, ma usava i braccieri nella parte più nibelungica del regime. Quindi io vorrei capire se questa gente studia le cose fino in fondo o se toglie la roba per mettere altra roba senza sapere che la roba che mette è peggio di quella di prima. Cioè, io avrei messo una targa sull'Eurac spiegando che quella era la porta d'entrata costruita nel regime, eccetera, eccetera. E poi avrei messo la targa sotto il Monumento alla Vittoria spiegando il cetero, tutta quella roba lì. Avrei messo le targhe fatte in un certo modo, dai tempi che furono, così evitiamo la polemica. È chiaro che la statua di Re Laurino che c'è in provincia è offensiva, se la prendiamo da un punto di vista. Però cosa facciamo? Togliamo la statua? No, metti una targa e dici, guarda, questo è il Re Laurino, è una leggenda. No? Anche la tribunale ci sono le targhe. Certo, adesso le hanno messe, adesso ci sono, però ci voleva la targa anche qua, se iniziamo a ragionare allora che vale, perché comunque se io sono una persona un po' sveglia e conosco cos'è il soft power, cioè i messaggi subliminali che arrivano nella società, vedere la statua di Re Laurino davanti al palazzo provinciale con un re di origine latina che viene schiacciato da un re germanico, se lei permette, È un po' grave, no? Infatti una volta l'ho fatta la battuta con Patcher. Abbiamo la statua di Walter che è stata eretta da un pangermanista ed è rivolta verso Trento perché deve germanizzare, e quella di Dante è rivolta verso Bolzano perché deve italianizzare, no? Quindi queste cose, se le scrivessero su una targa, avremmo la gente che se le va a leggere e dice: dai, ma guarda che stupidaccia, cioè, è una roba storica, non litighiamo per i nasi dei due poeti, no? Secondo me è questo che a Bolzano abbiamo sbagliato. Abbiamo, come con il lager, io l'altro giorno camminando verso l'Università di Bressanone, una persona mi ha detto: sì, che poi non è che era proprio un lager, era un campo di transito. E no, gli ho detto: bellezza, c'erano due ucraini che strozzavano bambini. Quindi, come vedete, nonostante la storicizzazione, lì ci hanno fatto una scuola dell'infanzia, hanno demolito, cioè, grave quello che è successo lì. È come se ad Auschwitz avessero fatto un Luna Park. Io credo che questa città dal 90 in poi abbia avuto delle problematiche, e purtroppo queste problematiche si siano poi riversate una volta nell'edificio, no? Ma non abbia mai fatto i conti con certi passati, con certe cose in un certo modo, perché non abbiamo mai voluto avere una storia condivisa. Personalmente sono andato a parlare con persone del BAS, quindi dei terroristi sudtirolesi, ci sono andato a parlare con una platea mista di italiani e di tedeschi, e abbiamo raccontato degli aneddoti di Klotz ed ero insieme a Rizzolli, che è tedesco, e a un altro storico che è italiano. E allora in quel caso là è difficile che gli dici. Infatti la gente, non è che il tedesco o l'italiano si sentiva bombardato e il tedesco si sentiva accusato. Cioè, abbiamo fatto un'analisi storica. Mancano questi interventi. C'è una Yakuz continua e quindi poi hai l'edificio abbattuto perché tanto... Cioè, io non so se adesso i bolzanini sarebbero andati in piazza per tenere il ponte Talvera. Ci avrebbero raccontato che il ponte Talvera è più ecologico, costruito in un altro modo l'avrebbero demolito. Stavano demolendo l'INA, l'ex INA. Ci stavano andati vicini perché comunque dovevano fare le cose... Cioè, fanno poi questi paesaggi con tutte le piante, sembra che ci sia più verde, no? È anche questa la cosa, che poi non c'è quel verde. Adesso vogliamo vedere quando finisce bene. Vediamo qui. Ma lì i bolzanini se la sono votata, perché? Perché l'hanno esasperata. Perché il parco stazione era gestito in un modo... Perché non hai gestito bene il parco stazione? E gestendolo bene, il bolzanino non avrebbe votato Benco, secondo me. Perché il parco stazione erano tutti affezionati. Però pur di non l'hanno talmente caricata politicamente, è come Piazza Vittoria. Perché ha vinto Piazza Vittoria? Perché l'hanno caricata politicamente. Cioè, tu non puoi d'amblè cambiare le cose così. Cioè, se domani mattina tolgono via Ambalagi, verrà fuori un altro putiferio, pur che nessuno pensa sia colonialista. Ma lascia via Ambalagi, mettici una targa, spiega perché è l'Ambalagi. In italiano diciamo che è Ambaradan, per dire che casino. Perché c'è stata la battaglia dell'Ambaradan, che a un certo punto non capivano più dove sparare. Spieghiamole, no, le cose, voglio dire. Invece non si spiega niente. E comunque ho concluso. Se avete altre domande, vi faccio andare a mangiare. Siete stati anche troppo pazienti.